Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Europa 24 riparte dal tema immigrazione. Donald Tusk all'Europarlamento oggi dice: prepariamoci ad aiutare Italia e Malta. Il messaggio è chiaro: la situazione complessa alle frontiere esterne dell'Unione Europea, la rotta balcanica che viene progressivamente chiusa, ed è notizia di oggi anche quella di scontri tra appunto migranti che cercano comunque di entrare, di proseguire il viaggio verso nord, e la polizia greca in Macedone che mantiene ferma la posizione. Poi naturalmente c'è invece il grande fronte, se vogliamo classico, quello del Mediterraneo, in fase di sollecitazione. Allora Tusk manda un messaggio e sicuramente sarà un tema su cui tornare con la cronaca nelle prossime settimane. Allora però ripartiamo proprio da questo intervento nel servizio che ha realizzato Alessandra Schepisi. I have in mind here the Central Mediterranean route. The numbers of would-be migrants in Libya are alarming. This means that we must be prepared to help and show solidarity to Malta and Italy. Richiama l'attenzione sulla rotta mediterranea lanciando un allarme sui probabili prossimi aumenti dei flussi di migranti. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella plenaria di Strasburgo ricorda che la rotta balcanica non è l'unica e che l'Europa deve essere pronta a dimostrare solidarietà a Italia e a Malta. Altri paesi, dice, oltre Grecia e Bulgaria si aspettano la nostra cooperazione. It will not be possible to simply copy the solutions we have applied in the Balkans. E in questo caso non è possibile copiare la soluzione adottata per i Balcani con l'accordo con Ankara, perché la Libia non è la Turchia. Da Tusk nessuna previsione sui flussi, mentre i numeri li fa il generale Paolo Serra, consigliere militare dell'inviato speciale ONU in Libia Martin Kobler, in audizione al comitato Schengen, secondo il quale dalla Libia c'è 1 milione di potenziali migranti pronti a partire. Occorre agire senza indugi, dice dunque il presidente del Consiglio europeo, evitando gli scenari accaduti in altri paesi. Tusk torna poi a difendere l'accordo con la Turchia, senza il quale, dice, Schengen sarebbe crollato, ci sarebbe stato il caos politico e avremmo avuto l'avanzare dei populismi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Una volta che avremo ricevuto maggiori informazioni, valuteremo le misure annunciate dall'Austria al Brennero nella prospettiva dei criteri di necessità e proporzionalità. Così Natasha Bertot, portavoce della Commissione UE per l'immigrazione, nel confermare di aver ricevuto la lettera del governo italiano in cui si sollecita Bruxelles a valutare appunto la compatibilità delle azioni di Vienna con le regole di Schengen. Intanto l'Austria sembra prepararsi al peggio. Il peggio sarebbe rappresentato appunto da un flusso molto importante che risale la penisola e dal Brennero ovviamente prosegue verso Austria e Germania. Alessandra Schepisi sempre ne ha parlato con il sindaco del comune di Brennero, Franz Kompatscher. Sentiamolo. Esiste un piano, perché noi al Brennero abbiamo, diciamo, un punto di assistenza che in opera ormai da più di un anno, dove l'anno scorso abbiamo assistito 27.000 profughi. Però una cosa è assistirli quando sono in transito, che uno mangia, che uno beve, prende un vestito, magari dorme una notte, si riposa un po', viene assistito, diciamo, al momento, e un'altra cosa poi quando sti profughi sono fermi o per qualche giorno, allora la situazione cambia. Per questo abbiamo già concordato con le forze di polizia, con la questura, che viene attuato un piano che è stato concordato in linea di massima, di fermarli già prima, far sì che è un flusso sostenibile verso il Brennero, di fermarli prima, e se dovesse capitare che al Brennero ci sono troppi che sono fermi, allora di ritornarli in altri comuni dove verranno fatte le strutture provvisorie per ospitarli. Secondo lei i cittadini del suo comune sarebbero disponibili ad ospitare un profugo in casa? Ma io penso che il Brennero ha già fatto la sua parte, già l'anno scorso abbiamo raggiunto il limite, perciò adesso devono, chiaramente, se ci sono tanti, devono essere distribuiti anche su altri comuni, perché sennò, diciamo, la comunità non può reggere questo peso. Questa dunque è la situazione. Quando sono le 14:06 minuti, Europa 24 finisce qui. Naturalmente l'appuntamento è per domani e adesso, come di consueto, tutti convocati. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.